Incontri di Gianfranco Fabi. Gli amanti del jazz l'avranno sicuramente riconosciuto, il Blue Train di John Coltrane. Iniziamo con questo brano l'incontro di oggi. Buongiorno, buona domenica, buon pomeriggio a quanti ci ascoltano. Buongiorno, buona domenica a Michele Tronconi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Michele Tronconi, presidente del Sistema Moda Italia. Forse avrebbe voluto fare il presidente del Sistema Jazz Italia. Le piace molto la musica jazz? Visto che sono all'ultimo anno di presidenza, posso pensare a fare qualcosa di diverso. Cosa c'è di simile, di vicino tra il jazz e la moda? Qui bisogna avere la stessa fantasia che ci si mette nella moda. La moda richiede ogni stagione di un continuo rinnovamento, perché parliamoci chiaro, la nostra è un'industria che ha vinto sul guardaroba pieno e ha ottenuto questo successo grazie a questa invenzione sociale che si rinnova ogni stagione, che è appunto la moda, il fatto di sentire il bisogno di certo. Mettere qualcosa di diverso e di nuovo. E indubbiamente anche il jazz è un continuo rinnovamento, che però in comune con la moda ha proprio il fatto che il nuovo viene costruito recuperando il vecchio, il passato, il bello che noi ci portiamo come eredità. E può sempre essere interpretato in maniera personale, le stesse cose possono essere cambiate, possono essere modificate, ma la radice è la stessa, un po' come la moda che si basa in fondo sul tessuto che può sembrare una cosa tradizionale, che però anche questo richiede innovazione. Corretto. Guardi, l'innovazione nella moda è un'innovazione di filiera, parte dal filo, tessuto, colore, l'abito. E poi lei ha detto una cosa molto bella e molto vera, soprattutto per noi italiani: la moda non è soltanto il frutto della filiera che offre, ma è anche il frutto della risposta da parte del consumatore, che reinterpreta e ricostruisce, magari a mo' di arlecchino, poi col composé le varie componenti e da vita a delle nuove mode che magari lo stilista e gli stilisti non avevano ancora pensato. Ecco, questo ha delineato già un po' il sistema moda. Lei è presidente, Michele Tronconi, di Sistema Moda, che è un'organizzazione di Confindustria che raccoglie appunto le imprese che lavorano in questo settore. Ma cosa vuol dire sistema moda? Sistema moda proprio perché nel nostro caso non è soltanto il momento finale che è l'inizio e la fine, l'alfa e l'omega. L'alfa parte da lontano, parte dal filato piuttosto che dal monomero in soluzione, e attraverso le varie trasformazioni arriva all'abito, arriva anche a quell'economia dell'esperienza che noi sappiamo costruire, come ho detto prima. Però nel dire questo significa riconoscere che dietro alla passerella, piuttosto che dietro certo. al negozio dove si presenta, si offre il prodotto che evoca il bello, il sogno e quant'altro, c'è anche il fatto di fare, la manifattura, l'industria. Ecco, quindi non ci sono solo gli stilisti sono importanti, sono fondamentali, ma gli stilisti non ci sarebbero se non ci fosse alle loro spalle chi fornisce loro la materia prima, la materia seconda, la materia, il semilavorato su cui intervenire. Quindi e una della forza italiana è proprio questa, di avere questa filiera complessiva. Corretto. Lei come imprenditore a che punto si pone in questa filiera? Ma io opero a monte, però il problema di rappresentare tutta la filiera implica una sfida ancora più forte, perché soprattutto nei momenti di crisi ci si accorge come nella filiera ci siano delle componenti molto molto forti che fanno da rompighiaccio soprattutto nelle esportazioni, i grandi brand, e ci sono invece delle componenti che sono più fragili, che ciononostante sono necessarie per contribuire a produrre a ogni stagione qualcosa di nuovo. Perché la nostra filiera è un po' come se fosse un'autostrada a doppio senso di marcia, non si va sempre in un'unica direzione, ma è un continuo via vai da una parte all'altra, che proprio attraverso il confronto, la dialettica in un certo, certo. senso, costruisce il nuovo. Ecco, e non tanto oggi 17 giugno del 2012, ma in questo periodo come sta andando il traffico? Arca miseria. avere. Il traffico in questo momento lo rappresenterai in questa maniera: all'estero corriamo, in Italia siamo alla finestra. Ah, quindi l'industria italiana all'estero corre, cioè è presente, e dall'estero arrivano dei segnali di fiducia, di ottimismo, di speranza, di possibilità di crescita. Ma soprattutto nei confronti dei nostri prodotti, perché abbiamo superato l'anno scorso i 7 miliardi di persone al mondo, e la quota parte di popolazione benestante nei cosiddetti BRIC, e non solo nei BRIC, sta crescendo in proporzione, e chi sta bene sente il bisogno di comunicare meglio, di più, e quindi ha bisogno di questi status symbol che noi in qualche maniera proponiamo. Ecco, ma in questa filiera moda si vende solo il prodotto finale, o l'industria italiana riesce anche a vendere all'estero, a collocare anche i prodotti intermedi? Paradossalmente possiamo dire che in certi mercati vendiamo di più, esportiamo di più semilavorati, in particolare tessuti di lana e di seta, che non quasi capi confezionati. Una cosa che fa sempre specie: in Cina noi esportiamo di più tessuti che non capi confezionati. Che magari vengono confezionati in Cina e ritornano in Italia? A volte sì, a volte ritornano in Italia, soprattutto per alimentare il mercato interno, perché noi siamo bravi a vendere il falso made in Italy. Fortunatamente siamo bravi a vendere all'estero il vero made in Italy, solo che prima dobbiamo essere in grado di produrlo, e qui quest'anno ci dice che qualche problema in più c'è. Qualche problema in più, ecco, abbiamo parlato di Cina, quali sono i mercati che si stanno muovendo maggiormente, su cui si può puntare, state puntando come sistema? Beh, oltre ai BRIC, che è un acronimo che sta a indicare Brasile, Cina, Russia e India, ci sono anche gli altri paesi dell'America Latina, ci sono altri paesi asiatici che stanno crescendo, c'è la Turchia che sta crescendo, quindi gran parte del mondo sta crescendo, anche se ogni tanto qualche rallentamento lo vediamo anche in questi paesi che crescono. Pensiamo ai segnali un po' controversi che sono arrivati dalla Cina nel mese di marzo e aprile. Però, ripeto, per quanto riguarda il nostro settore, l'importante è vedere in questi paesi una crescita del benessere, e quindi anche la crescita della quota parte di popolazione che vuole vestirsi di sogno, e noi rispondere, certo, a queste esigenze. Ecco, l'industria italiana anche in questo settore è un po' fondata sulle piccole e medie imprese. Questo è un limite per internazionalizzarsi, per andare all'estero? Beh, innanzitutto non dobbiamo pensare che la piccola e media impresa sia soltanto un frutto di residualità. La dimensione dell'impresa è sempre la risposta a un contesto, è una risposta adattiva. Quindi se abbiamo tante piccole e medie imprese è perché c'è un'esigenza di piccola e media dimensione. Qual è questa esigenza? Il fatto di essere flessibili e veloci. Ormai il nostro settore a valle è servito sia da una filiera di prossimità, una filiera vicina, quindi il vero made in Italy, sia da una filiera lunga, andando a cercare le produzioni che costano meno ma che richiedono una grande programmazione e grandi volumi di produzione. L'idea nuova nasce vicino, e per fare le cose nuove e disperdere i costi di questa creazione, la piccola e media dimensione è stato un risultato adattivo. Quindi prima di buttare via il bambino con l'acqua del bagno, cerchiamo di capire esattamente di che cosa abbiamo bisogno per rinnovarci continuamente. Certo, forse bisognerebbe appunto valorizzare quello che c'è di buono, anzi di positivo, di potenzialità su tanti fronti della piccola e media impresa, cercando di cogliere anche qualche elemento propositivo della grande dimensione. Certamente. In questo senso, ecco, si parla dentro di reti, di impresa, di possibilità di collegamenti. Su questo fronte l'Italia si sta muovendo, si riesce a fare qualcosa? Secondo me noi dovremmo fare di più, soprattutto nel nostro settore. Io ho detto anche all'ultimo Luxury Summit che noi abbiamo bisogno di uscire dalla crisi abbandonando l'ipocrisia tra pubblico e privato, ma anche l'ipocrisia tra privati. Noi celebriamo continuamente a parole la filiera, l'importanza della filiera, ma abbiamo bisogno di una maggiore cooperazione all'interno della filiera, riconoscere che lì sta parte del valore che poi possiamo trasferire a valle al consumatore. Quindi in un certo senso una capacità di considerare l'appartenenza a un settore come qualcosa che può essere fattore di competizione verso l'esterno più che all'interno tra le singole imprese. Guardi, adesso abbiamo gli europei di calcio, siamo tutti non solo calciatori ma anche allenatori della nazionale, allora ricordiamolo: per fare gol bisogna fare squadra. Ecco, fare squadra è importante. Fare squadra è sicuramente un elemento fondamentale sotto tanti aspetti, anche perché bisogna conoscere bene gli avversari non sono chi gioca con noi ma chi gioca contro di noi. E il fuoco amico è un grande problema anche del settore. È un grande problema. ancora con le note jazz di John Coltrane in questo brano Blue Train, il treno blu. Riprendiamo il nostro incontro con Michele Tronconi. Buon pomeriggio a quanti ci ascoltano, presidente del Sistema Moda Italia. Nella prima parte abbiamo parlato delle prospettive, delle problematiche, ma anche delle speranze di un sistema che è sicuramente un sistema dinamico, un sistema che si sta internazionalizzando, che sta cercando di sfondare anche su mercati nuovi come quelli della Cina, come quelli del Brasile, dell'India, della Russia, i famosi BRIC, ma un po' in tutto il mondo, anche perché il Made in Italy continua ad essere un brand considerato di eccezione. Questo gli chiedo la conferma a Michele Tronconi. Senz'altro, anche lo dimostrano appunto il desiderio di questi nuovi buyer in giro per il mondo. C'è ancora un capitale reputazionale forte che possiamo sfruttare, dobbiamo solo fare attenzione noi a non rovinare il nostro capitale reputazionale. Ecco, in questo senso l'Italia molto spesso sembra specializzata nel farsi del male da solo su certi fronti. Noi siamo bravi a fare autogol. Ecco, il fare autogol, esatto, restando un po' nel clima degli europei di calcio. Ma in questa prospettiva, l'industria italiana che cosa in questa fase, che l'industria appunto, abbiamo visto gli ultimi dati, il calo della produzione industriale, le difficoltà, la crescita della disoccupazione, che cosa frena, oltre ovviamente la difficoltà generale, la difficoltà complessiva, però sembra che l'Italia ci aggiunga qualcosa di più. Ah, guardi, partiamo appunto dal tema delle esportazioni. Adesso è un leitmotiv generale, bisogna esportare, meno male che esportiamo, esportiamo di più, ma per esportare di più bisogna prima produrre, e per produrre di più bisogna avere una maggiore convenienza al produrre, e noi stiamo facendo tutto il contrario. Quindi come facciamo ad alimentare le nostre maggiori esportazioni future se rendiamo il produrre in Italia sempre più oneroso e quindi meno competitivo? Noi abbiamo un costo dell'energia che è sempre più alto, aumenta addirittura il divario rispetto agli altri partner europei, non solo era un più 30% soltanto qualche anno fa, ma adesso ancora di più perché dobbiamo coprire gli incentivi alle fonti rinnovabili, oltretutto in una maniera che è estremamente penalizzante per chi poi queste produzioni le deve fare partendo dal filo, dal tessuto, dal tinto, dalla confezione. Ecco, magari per finanziare le fonti rinnovabili acquistiamo i pannelli fotovoltaici in Cina invece che produrli in Italia, questo perché è più conveniente acquistarli in Cina. Ecco. Guarda, il vero problema delle fonti rinnovabili è che noi incentiviamo questi investimenti senza avere poi la possibilità, per un problema di connessioni di reti, di utilizzare tutta questa energia che in teoria dovrebbe essere immessa in rete, per cui non abbiamo il beneficio dell'investimento a livello pubblico. Ecco, ci sarebbero tanti fronti su cui soffermarsi. Possiamo parlare della pressione fiscale? Oh, sfonda una porta aperta. Ecco, sicuramente, ecco, i limiti che ha l'industria italiana ci sono, però sono limiti noti. Come mai non si riesce ad affrontarli in maniera sostanziale? Se noi riprendiamo anche i discorsi dei presidenti di Confindustria da anni e anni, sembra che ripetano un po' le stesse cose. È un paese che non riesce a muoversi. Beh, questo è un brutto segno, il fatto che si continua a indicare la malattia e nessuno poi di fatto passi alla cura. Se è vero che l'industria, non soltanto l'industria, c'è anche il primario, insomma tutto ciò che serve a fare circolare il reddito e quindi creare occupazione, dall'occupazione avere consumi interni eccetera eccetera, se questo motore dell'economia non viene lasciato in grado di girare perché continuano a essere aumentati i balzelli, i famosi lacci e lacciuoli, certo, di cui parlava Guido Carli negli anni 70-80, esatto, siamo ancora lì, sono solo aumentati, cioè a parole abbiamo detto una cosa, siamo entrati nell'euro, ne abbiamo beneficiato con tassi bassi, abbiamo collocato il nostro debito pubblico all'estero perché non c'era più il rischio di cambio, però questo ci ha permesso di rimanere nei vizi, aumentare la spesa pubblica corrente senza fare gli investimenti pubblici che servivano per aumentare la produttività totale dei fattori, l'industria che in molti casi ha preferito delocalizzare anche nel senso sbagliato, c'è una delocalizzazione positiva che è quella che permette di internazionalizzare, quindi si vende di più all'estero e si produce di più anche internamente, ma c'è anche stata una delocalizzazione non positiva perché ha permesso di trasferire del valore all'estero e ad alimentare anche quelli che sono i nostri competitor del futuro. E cosa abbiamo fatto in casa nostra per mantenerci all'altezza della nostra leadership nel Made in Italy? Penso al fashion, penso anche all'arredamento, penso all'alimentare. Insomma, noi ogni tanto rischiamo di buttare via la nostra primogenitura per un piatto di lenticchie. Ecco, spesso viene vista ancora l'industria come una mucca da mungere, non come qualcosa che produce ricchezza complessivamente. Bisognerebbe forse avere anche una cultura industriale più forte nella stessa scuola. Come vede i giovani di oggi? Come vedono i giovani l'industria, la manifattura, l'industria tradizionale, che poi è il punto di forza italiano? Ci si deve chiedere se i giovani siano in condizione di poter vedere l'industria, visto che l'industria sta facendo sempre più una cura dimagrante. Devo dire che i fatti recenti, terribili, e a cui va tutta la nostra vicinanza del terremoto in Emilia-Romagna, ha riportato le immagini dell'industria reale, concreta, nelle case. E questo, in un certo senso, nella disgrazia, è anche un aspetto positivo. Cioè, finalmente ci si rende conto che si può vivere bene soltanto se si lavora e si fa ancora quei lavori che il mondo, tutto sommato, certo, è disposto a comprare da noi. Certo, abbiamo riscoperto forse la tessitura di Carpi, il biomedicale di Mirandola, che ci sono queste realtà industriali, che sono realtà che magari non fanno parlare di sé, ma sono realtà che sostengono poi tutte insieme l'economia italiana. Forse l'industria dovrebbe farsi apprezzare di più in questo, far parlare meglio di sé. Probabilmente abbiamo impiegato troppo a vendere i nostri prodotti, dovevamo anche vendere un po' di più il sistema del Made in Italy, cioè quello che ci sta dietro. Ci vorrebbe appunto magari un taglio diverso, anche un taglio di moda, un taglio di costume diverso anche per il modo di intendere l'industria, che non è più poi l'industria vecchio tipo, le vecchie catene di montaggio, le vecchie fabbriche assordanti. Ormai l'industria è qualcosa di più leggero, di più dinamico, in cui sicuramente si esercita la creatività. Ecco, gli italiani sul fronte della creatività hanno del filo da cucire per tutti gli altri, probabilmente. Sì, guardi, lei ha detto una grande verità. Noi abbiamo sbagliato la narrazione con cui ci siamo rappresentati a livello industriale, e anche quando abbiamo avuto delle intelligenze, ovviamente abbiamo avuto delle intelligenze eccellenti, soprattutto sull'interpretazione dei distretti. Penso a Beccattini, e penso anche agli amici Marco Fortis, al mio professore Quadrio Curzio, e tanti altri economisti che hanno saputo difendere questa nostra diversità. Però purtroppo, se vado indietro 10-15 anni fa, il leitmotiv era molto anglosassone, e ancora oggi, quando io vado a Bruxelles a parlare della nostra industria, io trovo che poi gli economisti che vengono coinvolti non sono italiani, sono di altre nazioni europee. Ma come mai noi abbiamo saputo fare e non abbiamo saputo pensare e rappresentare il nostro fare in una maniera moderna, e abbiamo accettato il pensare altrui, per cui la nostra era soltanto una sunset industry, cioè un'industria al tramonto? Purtroppo accettare la narrazione degli altri applicata pedissequamente su di noi ci ha fatto male. Gli stessi imprenditori ci hanno creduto e purtroppo in alcuni casi hanno smesso di investire. Cioè, qualcuno ha pensato che l'Italia potesse essere un paese post-industriale, in cui l'industria fosse qualcosa del passato, bisogna guardare che il futuro non fosse industriale, però se non c'è chi produce ricchezza, come si fa ad andare avanti? Ecco, in questo senso lei è stato per anni presidente di Euratex, mi sì. sembra, da Bruxelles, quindi l'industria europea del tessile. Come vedono dall'Europa gli opinion leader l'industria italiana, la realtà italiana? Beh, anche lì noi abbiamo fatto un errore. Noi abbiamo sempre giocato troppo in difesa mentre avremmo dovuto giocare in attacco. Io ho avuto una bella esperienza durante la mia presidenza, perché sono riuscito a organizzare un doppio binario, cioè non c'era soltanto la rappresentanza dell'industria che andava dai commissari a dire questo è quello che siamo e questo è quello che vorremmo essere col vostro aiuto, ma avevamo anche l'aiuto del governo. Io ho avuto, da questo punto di vista, una bella esperienza con Adolfo Urso e con la ministra Bonino, quando si sono alternati al commercio estero. Veramente si riusciva ad andare a dire le stesse cose in Commissione europea dai commissari, penso soprattutto a Peter Mandelson e Gunther Verheugen. L'errore nostro l'abbiamo fatto quando siamo andati a dire cose diverse, facendo un cortocircuito, e purtroppo è stato l'errore dell'Italia da un punto di vista politico. Cioè, non avere una continuità, non avere una stabilità, non avere una visione forse comune, e anche qui farsi concorrenza all'interno più che guardare insieme verso l'esterno. Corretto, e dire cose diverse. Ecco, guardiamo un po' al futuro. Certo, il futuro è una delle cose più difficili da prevedere, però oggi tra l'altro si vota in Grecia, e già questo è una grande incognita. Come vede il futuro dell'Italia, pur con tutte le difficoltà che sappiamo? Ma il futuro è qualcosa che noi dobbiamo avere il coraggio e l'orgoglio di costruire, pensando al grande passato che abbiamo alle spalle. Abbiamo un'eredità di intenti, un'eredità di effetti, di affetti di cui dobbiamo essere all'altezza. Di certo non è qualcosa che possiamo costruire da soli o costruire soltanto a livello micro. A livello macro vanno prese delle decisioni forti, importanti, perché è evidente che qui il vero problema è quanto vale la carta moneta che abbiamo, certo, nelle nostre tasche. Sarà ancora l'euro, non lo sarà, che cosa sarà? Qualche settimana fa sull'Economist c'era un bel servizio a proposito del nostro futuro comunitario, che era sintetizzato nella battuta finale: superstate or separate, o ci dividiamo o ci integriamo di più. È ovvio che noi dobbiamo dire ai nostri governanti da che parte vogliamo stare e pretendere che sappiano anche un po' picchiare i pugni mi sul tavolo. Mi pare che lei voglia stare nel fare un'Europa vera, un'Europa... Sì, io preferisco proseguire un processo di integrazione vero, che secondo me era anche l'idea che stava dietro alla stessa adesione dell'euro, che non era quella di beneficiare di una moneta comune, di un basso tasso di interesse, ma un processo di integrazione soprattutto dal punto di vista istituzionale. E il sistema moda farà la sua parte in questo processo? Noi faremo quello che noi possiamo fare, continuando a fare il mestiere che sappiamo fare. E quindi anche di dare un'immagine all'Italia, sicuramente non migliore di quella che è, ma quella che è, che sarebbe già abbastanza per fare dell'Italia un paese come è, infatti, alla pari con tutti gli altri. Guardi, se c'è un motivo per cui anche i nostri governanti dovrebbero sostenere il nostro settore, è proprio perché è un bel ambasciatore di quello che noi siamo veramente. Grazie a Michele Tronconi, presidente di Sistema Moda Italia, di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Peter Bascapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica. Grazie a voi.